Salve a tutti i radioascoltatori di Radio Big World e benvenuti alla puntata numero 3 di A Tavola con Fabiola. Questa è Radio Big World e io sono Fabiola. Oggi vi presenterò i fiori di zucca in pastella. Ingredienti per 4 persone. 20 fiori di zucca, 250 g di farina zero, 2 uova, 3 decilitri di latte, olio di semi di girasole. Pulite i fiori di zucca, lavateli e asciugateli. In una ciotola con una frusta da cucina, sbattete le uova con il latte. Unite quindi la farina setacciata e continuate a sbattere fino ad ottenere una pastella. Aggiungete quindi i fiori di zucca. Mescolate e lasciatele riposare per almeno 30 minuti. Friggere i fiori di zucca. Scolate i fiori dalla pastella in eccesso, dunque friggeteli in olio caldo fino a che non saranno dorati. Dunque recuperate i fiori dalla padella e quindi fare riposare su carta assorbente. Buon appetito! Grazie a tutti i radioascoltatori di Radio Big World, io sono Fabiola e vi aspetto alla prossima puntata di A Tavola con Fabiola.